Un buffa soldier giocava a canasta. C'era un buffa soldier col cannone a San Foca. Stolen from Leuca, brought to San Foca. Mazzate on arrival, mazzate for survival. Quando questo analizza il trend, a lui fa poco senso. Come Fred Red Rock Rasta, un buffa soldier. A questo presero a Leuca, portato a San Foca. Croccato on arrival, croccato for survival. Un buffa soldier guidava una Mazda. Un buffa soldier sulla sabbia di San Foca. Se ti chiedo una cartina, non voglio dire l'Atlante che tu stai cercando un necruscotto. Ma dove cazzo credi che sto? Sono un buffa soldier bombato su Foca. Stolen from Yukon, brought to San Foca. Picchiato on arrival, picchiato for survival. Ieri era un buffa soldier, oce con la sua San Foca. Pietro! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Un buffa soldier viaggiando sulla sabbia dice passa ancora e tu gliela dai. Viaggiando sulla sabbia ha detto che era un buffa soldier. Ha scoperto San Foca, un buffa soldier, e mo' sta Rashka. Rashka non arrival, Rashka for survival. Dal chiuno del capo al cuore du Salento, buffa! Boy, Rusalentum, Rasca in Rusalentum.